Zot. Fulminati in azienda. Centri, ti ho chiamato 2 ore fa, mi arrivi adesso. Hai la velocità di risposta di una lumaca. E che ci posso fare? Ogni mattina mi trovo 150 mail più gli spam. E gli vuoi dedicare 2 minuti a testa per leggerle ed eventualmente risponde? So 300 minuti, cioè 5 ore al giorno. Fatti i conti, no? Ma lo sai, ma lo sai che stavolta hai ragione. Ma scusa, ma perché tutte queste mail? Perché tu ricevi tutte queste mail? Tra l'altro, nell'ultima ora me ne hai anche mandate 20, tu. Certo, ma sono tutte in cicci però, eh? Sono tutte, scusa? In cicci, in copia conoscenza, perché è importante che tu sappia cosa gli dico ai venditori e soprattutto a quelli degli acquisti. Sì, e soprattutto è importante che tu ti pari il culo, scusa il termine, Centri, te lo dico io come stanno. Vabbè, comunque mi sono arrivate 23 mail anche da te, di cui la metà negli ultimi 20 minuti, che già che c'ero mi potevi parlare direttamente visto che sono qua. Ho capito, ma tu non arrivavi, io avevo urgenza di comunicarti gli obiettivi delle riunioni di oggi. Il tempo è denaro, ricordati, tempo era fuggito. Ma Centri, mi stai ascoltando? Cos'è che stai facendo adesso? E che sta a fare? Adesso risponde col BlackBerry. Allora, Schedula, ti ho convocata perché sta storia del fiume di mail deve finire. Parola d'ordine, stop. Ottimo. Potremmo mettere dei disincentivi. Chi spedisce più di 1000 mail in un anno non prende il bonus di fine anno. Ma no, Schedula, sì. NCS non ci siamo. Tanto quest'anno il bonus non lo diamo a nessuno. E poi ci vuole un metodo più radicale, più efficace, più en tranchant. Potremmo togliere l'account di posta a tutti. Sì, e comunichiamo con le nuvole di fumo come toro seduto e pelle rossa. Dai, Schedula, per piacere, ci vuole un'azione persuasiva. Potremmo fare allora un'azione maieutica. Cosa c'entrano i mai adesso? Maieutica, cioè che parta da ciascuno di noi l'idea di usare meno la mail, però in realtà... No, Schedula, perdonami. Voi delle risorse umane avete sempre splendide idee irrealizzabili. Ascolta me, ti dico io, manda a tutti i dirigenti una mail minacciosa da parte mia dove gli dice che il numero di mail deve drasticamente diminuire. E cosa metti in oggetto? E metti NCS DUT. Non ci siamo, dateci un taglio. Marco, ma che bella mail hai spedito oggi. Scusami, Font, ma di quale delle 55 che ti ho mandato nelle ultime 2 ore? Ah, quella sul taglio delle mail. Questo tono diretto, chiaro, semplice. Cari colleghi, adesso basta, avete rotto. Geniale, speriamo che così finisca questa storia delle mail a pioggia. Ti ringrazio, Font, ma davvero speriamo che finisca sul serio. Ma secondo te una mail da sola basta? Hai ragione, hai proprio ragione. Una rondina non fa primavera. Però come esperta di Net Communication potrei fare partire una campagna mediatica massiva impostata sulla tua mail. Ma sì, ma brava, ma dai, ma facciamo una bella mail a tutti, tipo catena di Sant'Antonio con oggetto? Morte alle mail in cicci, che gira in azienda per 2 mesi come tormentone per rinforzare il messaggio. Beh, morte alla mail è un payoff un po' grigio, però grigio. Io rimarrei più alta, parlerei piuttosto di eutanasia. Uè, ma com'è che qui non si riescono più a mandare le mail oggi, Font? Ah no, non so. Prova a sentire l'IT. Hai ragione, va, chiamiamo questi qui dell'IT. Pronto? È pronto, IT, ascolta, qui è tutto bloccato. È tutto bloccato, sì, ma dico, per lanciare la campagna di riduzione delle mail sono partite tante di quelle mail che si è intasato tutto. Capo, è successo un casino, si è scatenata una catena di Sant'Antonio colossale partita da mail su taglio da email. Tutti i dipendenti e i loro familiari coinvolti, si è intasato il sistema, è entrato in tilt. Sì, Marco, un disastro. Marco, un disastro, ma è stata tua l'idea, Font. Ma me l'hai suggerito tu di fare tipo catena di Sant'Antoine. Vabbè, ho capito, il problema è, adesso, cosa facciamo? Appena si sblocca il sistema, scateniamo un'altra catena di Sant'Antonio dicendo di piantarla con l'altra catena di prima. Gagliardo, no? Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3z 2o 1t.